lei al tuo amor la sua medicina, ma sappi per se o sappi che di mia libertà questi che il cielo mi lascia tua mercè, miseria avanzi rendono la mia vita e dello stesso morir meno godita. Nulla dunque tu apprezzi del mio provvido amor, le prove e il merito, gratitudine e vieta, e che fia mai che tenda nuove insidie alla mia pace, una fiamma vivace che dall'eso gentil nel cor m'accese, più misera mi fa di quel che fu spietato. Vagna lui che immerso in mille oggetti nulla cura il tuo amore, o non lo sa, o non lo crede il cuore. Thank you. Hey, boy.

Thank you.

tanto m'affligge tanto che se ben tu non vedi quest'occhio a lacrimar ne scopri il pianto. Già nemico d'amor, amar non voglio, Andromeda lo sai. Ama che giusto il tuo Perseo fedel, che ben lo merta, io parto. Almeno un partir si presto, ode pria che tu parta. La speranza è un delirio. Che fanno in questo guisa l'amor mio tu disprezzi? Bella, con tal vigore della mia libertà servo il piacere. Piacere che troppo è fiero a quest'almo d'aliso che ti vive. Ma piacere che mi giova a dirmi sento disdegno che mi formare. Te lo dissi ancor, non voglio amore. Ah, Timo la speranza, la gelosia, l'amore, mi fecero soffrir pene di morte, come or della tua sorte, via chi t'ama e disprezza, tu scambi adorator, serpa la fede. Thank you. Thank you. Lieta, il prodigio

creder non ti posso, bugiardo adorator di mia fortuna. Abbiam perso al tempio e vi si chiudo in presenza dei lumi, il vuoto, il giorno. Chiudasi, e quindi nasca l'augurio fortunato d'un amore tra noi sempre beato. Thank you. Thank you. Marzio, che tardi più, vedi gli allegri cori di ninfe e di pastori acconti, per accrescer la pompa ai tuoi trionfi. Andromeda, tra noi non v'è chi più di me gova, il mirarti fatta sposa di Perseo e fuor d'affanni. Che i gravi miei danni quanta pietà ti avesti, e mi ricordo creder non ti posso bugiardo adorator di mia fortuna. Abbiamo perso al tempio e vi si chiudo in presenza dei lumi il vuoto il giorno. Quindi nasca l'augurio fortunato d'un amore tra noi sempre beato. Sposa molto cara, sposa, questo è un pezzo singa il petto, il brindo un pezzo. Sono il mio sogno, il mio sogno, il mio sogno, il mio sogno.

是又到雨季了。 阴天下雨就是容易影响心情。 在同个屋檐下，你渐渐感到心在变化。 为什么心在变化呀？忘带伞了。 汛期将至，提醒您及时关注天气预报和汛期预警。雨天减少出行，多使用公共交通，绕行积水路段，听从交警指挥，关爱生命，远离洪水，人人参与，安全度汛。 真正的女神不一定长发披肩，也可以潇洒干练。